L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata che ci prendiamo ancora come di pausa, di respiro per l'inizio del nuovo anno, e lo facciamo scorrendo le pagine e discutendo ovviamente dei contenuti di un libro che mi è capitato di conoscere grazie alla scampagnata di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, quella nelle Langhe Monregalesi per il progetto Terre Originali. Ed è l'occasione per ricordarvi che se volete riascoltarla, come tutte le altre puntate dell'Altro Pianeta, quella sulle Terre Originali, sul progetto Terre Originali, è disponibile su internet sul sito di Radio 24. Ma torniamo al libro. Il libro in questione è Dimmi come mangi, 14 interviste imprevedibili sul cibo, edito da Terre di Mezzo. Gli autori sono Stefano Femminis, giornalista, e Paolo Corvo, che dirige il laboratorio di sociologia dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che è qui con noi. Benvenuto, professor Corvo. Buongiorno. Ebbene, quando ho ricevuto questo libro da Paolo Corvo, pensavo di poterlo al massimo segnalare a qualcheduno più esperto di me in radio sui temi della gastronomia. Poi invece, leggendolo, ho trovato molti spunti che mi hanno convinto a portare questo volume in una trasmissione che si chiama L'altro pianeta e che si occupa di ambiente e di sostenibilità. Perché l'ambiente e la sostenibilità sono un po' ovunque in queste interviste, no, professor Corvo? È un buon segno per me con questa trasmissione, ma in generale per tutti. No, indubbiamente, anzi la ringrazio per aver colto anche questi aspetti. Indubbiamente, quando noi abbiamo immaginato questo libro, abbiamo immaginato soprattutto che si trattasse di far parlare dei personaggi famosi di cibo in un modo leggero ma non superficiale, e in modo tale che potessero uscire quelle che sono le principali dinamiche legate al cibo. Indubbiamente la dimensione della sostenibilità è fondamentale, perché si lega molto bene a quelle che sono anche le scelte quotidiane che ognuno di noi fa nei consumi alimentari. E questi personaggi famosi, che tra l'altro devo dire sono stati estremamente semplici e naturali e spontanei nelle loro interviste, non hanno assolutamente mai mostrato, diciamo, una distanza dal tema, forse proprio perché il cibo è qualcosa che è legato alla vita quotidiana e alle scelte quotidiane di ognuno di noi, e in qualche modo indubbiamente ha a che fare con l'aspetto della sostenibilità, perché è un tema che ormai pervade ogni aspetto della vita sociale. Senz'altro. Allora, lei dice, non abbiamo ancora detto chi avete intervistato, sono in realtà certo. È forse il caso di parlarne, no? Si va da Pupi Avati, Michele Serra, Bruno Pizzul, Philippe Daverio, insomma ci sono Licia Colò, Katia Bastioli. Sì, ecco, è importante ricordarli, anche perché, come potete notare, si tratta di personaggi anche di realtà molto diverse fra loro, e questa è stata anche una scelta. Cioè, noi volevamo cercare di cogliere un po' tutte le dinamiche del mondo dello spettacolo, dell'arte, della cultura, dello sport, e personaggi che in qualche modo per noi erano significativi, perché nella loro attività avevano sempre dimostrato comunque una qualche attenzione per il cibo. E devo dire che poi nelle interviste questo è uscito molto bene. L'aspetto della sostenibilità è molto interessante, da dove si sposa con il recupero di quelle che sono le tradizioni locali. Ben inteso in un concetto di locale che non è localismo, ma è il recupero delle tradizioni, delle ricette della nonna, in qualche modo ritornare appunto alla naturalità del cibo, che è una indubbiamente delle dimensioni della sostenibilità, perché è un cibo che deve rispettare l'ambiente, deve rispettare naturalmente le persone che vi lavorano, e anche sicuramente gli animali. Cioè, il benessere animale è diventato oggi uno degli elementi più importanti anche nelle scelte di consumo alimentare. C'è anche sicuramente, sì, questo aspetto del benessere animale, sì, l'ho colto. Mi è molto così, mi ha colpito anche un'altra cosa, che però forse esula un po' dalla questione di sostenibilità. Mi sembra che le donne, e dice molto bene Katia Bastioli, vivono questo aspetto della cucina, del preparare, con molta attenzione per i contenuti, e quindi l'origine, che sia animale, che sia locale, che sia eccetera eccetera, ma con meno passione, almeno per quelle che avete trovato voi, che occupano tutti i ruoli appunto di rilievo, fanno lavori particolari, meno passione per cucinarlo in sé, mentre gli uomini, che le, come dice Katia Bastioli, lo fanno per scelta quando decidono di cucinare, certo, non per dovere, allora hanno anche queste attenzioni rispetto a come lo faccio. Mi viene in mente anche Enzo Bianchi della comunità di Bosi, che dice: io lo faccio di rado, ma quando lo faccio come, con tutti i crismi, come faceva mia nonna, insomma, no? No, no, indubbiamente sono stati, come dicevo, molto naturali, no? Questo è stato molto bello, grande disponibilità nelle interviste e una grande naturalezza. Devo dire, io nelle interviste che ho condotto personalmente, ci siamo divise, alcune volte abbiamo fatte insieme con il collega amico Stefano Feminis, è interessante quello anche che lei notava rispetto a questa differenza di genere. Noi abbiamo proprio anche posto una domanda rispetto al fatto del motivo per cui i cuochi sono prevalentemente maschi, i chef, diciamo. In effetti la risposta prevalente è proprio il fatto che le donne per secoli sono state costrette così per tradizione sociale a dover cucinare, quindi è diventata una routine, è diventato un obbligo. Oggi indubbiamente l'uomo può invece esprimersi con maggiore possibilità appunto di autorealizzazione, di creatività, e per la donna oggi è cucinare è diventata giustamente una scelta. E forse il fatto che queste persone che abbiamo intervistato cucinino meno è dovuto anche a una questione di tempo, essendo manager o comunque donne che hanno veramente ricoperto un ruolo molto significativo e rilevante nella vita sociale, chi nell'ambito giuridico, chi nel giornalismo, chi come Katia Bastioli nell'imprenditoria, anzi di recente è stata anche ulteriormente promossa, no? Ha avuto un ulteriore importante incarico a livello nazionale. Quindi forse c'è proprio anche una mancanza di tempo, in qualche modo. Per esempio dice Colò, dice: ma mi piacerebbe anche cucinare con più calma, però spesso siamo costretti dal tempo, anche se cerca però, giusta dice, di trasmettere alla figlia quelle che erano le ricette che a sua volta sua madre le aveva trasmesso. Quindi c'è comunque un'attenzione a continuare anche la memoria, ecco, di quello che è stato il passato, altrimenti quello si rischia di essere perso, no? Anche in questo senso secondo me va declinata la sostenibilità, cioè continuare alcune tradizioni che in qualche modo meritano di essere conservate, che sono quelle tecniche che spesso le casalinghe, le mamme, le nonne avevano e che distinguevano il loro cibo da quello di altre famiglie, no? Quella è forse una cosa italiana molto, molto interessante. Sì, sì, anche nel recupero delle tradizioni o delle abitudini di una volta, anche del modo di cucinare proprio di una volta, si parla a un certo punto del pane, della pagnotta, grande pagnotta dura di più, anzi addirittura più buona il giorno dopo perché ha tempo di continuare a cuocere e lievitare. Il famoso pane di ieri che è anche il titolo di un bel libro di Enzo Bianchi. Esatto, ecco, sapere che il pane di ieri può essere più buono domani se fatto in un certo modo fa sì che anche oggi possiamo evitare gli sprechi se ci riappropriamo di quella conoscenza. Infatti, ecco, l'altro aspetto molto importante legato alla sostenibilità è proprio quello dello spreco alimentare. Noi sappiamo che lo spreco in genere si sviluppa in tre momenti: la produzione, la distribuzione, ma anche il consumo, ed è qua che le scelte individuali e i comportamenti delle persone diventano importanti. Indubbiamente tra gli intervistati c'è questa consapevolezza che è molto importante, perché indubbiamente forse anche a causa della crisi ha riportato un'attenzione a tutto ciò che in qualche modo può essere recuperato. Ecco, pensiamo, non so, alle polpette, a tante altre ricette che in passato, in condizioni di maggiore povertà, venivano molto utilizzate proprio perché si trattava di utilizzare tutto di un prodotto, di un alimento. Forse questa è una dimensione che anche i nostri intervistati hanno sottolineato e che è sicuramente tra i pochi effetti benefici della crisi, che peraltro invece ha creato molti problemi. Ma in questo senso penso anche, non so, ai fornai che adesso in alcune realtà milanesi e anche in altre parti del paese alla sera o appunto il giorno dopo vendono a metà prezzo appunto il pane del giorno prima, e questa è un'operazione sicuramente anche commerciale, ma che indubbiamente va nella direzione della sostenibilità. Senta, adesso le chiedo un aiuto per spiegare agli ascoltatori quel bel discorso che viene fuori dall'intervista, quel ragionamento che viene fuori dall'intervista ad Aldo Bonomi su Vita Nuda e Nuda Vita. Io posso solo così fare da portavoce in sì, questo ma caso. Ma diciamo che in effetti il concetto è abbastanza complesso. Diciamo che Aldo Bonomi, che è stato un sociologo importante, di fama, conosciuto anche per le sue ricerche sui distretti industriali, fa questo un gioco di parole, ma una distinzione molto importante. Da un lato lui definisce nuda vita, qua avendo il libro anche sotto mano lo cito per evitare appunto di non interpretarlo diversamente, dice che è sostanzialmente la capacità di pensare e di comunicare, per cui in questo senso è il fatto che questo sicuramente condiziona il rapporto con la corporeità e anche con il cibo. Poi però c'è un'altra dimensione, che è la vita nuda, e cioè in questo caso lui si richiama al termine bios, che in greco significava mangiare, abitare, diversi significati, ma comunque anche quello di mangiare. E quindi sostanzialmente è in questo caso la potenza della tecnica, ecco, no? Che in qualche modo ci ha fatto dimenticare l'importanza della vita nuda, quindi potremmo dire della realtà quotidiana, della realtà di tutti i giorni. E lui fa per esempio riferimento, quando al momento dell'intervista purtroppo c'erano questi fenomeni, che peraltro ci sono anche in questi giorni, ahimè, dei migranti morti nel Mediterraneo, no? Cioè in fondo tra immaterialità e materialità, potremmo dire, ed è un gioco evidentemente molto complesso e molto delicato, perché deve trovare poi un suo equilibrio, e questo naturalmente è un concetto complesso, ma in realtà è estremamente importante vedere, per esempio, se noi lo applichiamo al cibo, come applicare le tecnologie rispetto alla, appunto, non so, per esempio ai sistemi agricoli, all'alimentazione. E volendo essere ancora più magari semplici, possiamo dire è questo rapporto che esiste tra natura e cultura, no? Che in fondo è primordiale, però è estremamente delicato. Come noi possiamo utilizzare alcune scoperte fatte dalla scienza per migliorare sicuramente i sistemi aggregati dell'agricoltura, senza però dimenticare l'importanza che i prodotti naturali hanno, e qui tutto il discorso molto delicato, molto complesso, per esempio sugli organismi geneticamente modificati e su altri aspetti che naturalmente sono controversi, ma vanno molto, molto approfonditi, ecco, prima di prendere poi delle decisioni. E come sappiamo, in Italia noi siamo abbiamo emanato delle leggi che proibiscono l'uso degli OGM, no? Ad esempio, qui è il prevalere, diciamo, di una, il preservare quello che può essere la produzione italiana rispetto a tecniche che evidentemente non sono considerate benefiche per le persone. Quindi anche sì, c'è un può anche essere una scelta fatta, come le suggeriva appunto Katia Bastioli nella sua intervista, una scelta che uno può fare anche in termini economici, dicendo il made in Italy è questo e io voglio preservarlo da qualunque contaminazione. Poi lo si può fare invece magari in termini di salute, dicendo no, lo faccio perché non so che effetti può avere. Ci sono tante motivazioni che possono portare. L'importante è avere una scelta, cioè fare una scelta e non essere disomogenei come spesso facciamo magari. Adesso non sullo specifico dell'OGM, ma in Italia a volte facciamo delle scelte ibride, diciamo. Un po' di compromesso che possono lasciano spazio magari a varie interpretazioni, ma indubbiamente nell'ambito di OGM, come in altri casi che riguardano l'alimentazione, secondo me è molto importante il principio di precauzione, perché indubbiamente è sempre meglio essere, diciamo, preventivi rispetto a determinati fenomeni, correndo poi magari invece il rischio, arrivando dopo, di trovarsi già con degli effetti dannosi. Quindi secondo me essere cauti ha un significato importante. Adesso facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio a tutti. In questa puntata stiamo parlando di un libro che solo apparentemente ha poco a che vedere con una trasmissione di ambiente e sostenibilità ambientale come questa. Il libro si intitola Dimmi come mangi, 14 interviste imprevedibili sul cibo, è edito da Terre di Mezzo. Gli autori sono Stefano Femminis, giornalista, e Paolo Corvo, che dirige il laboratorio di sociologia dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e Paolo Corvo è il nostro ospite. E ci siamo lasciati poco fa sull'intervista a un sociologo, è una delle interviste che compongono questo volume. Il sociologo intervistato è Aldo Bonomi, e nella sua riflessione sul cibo Bonomi distingue tra nuda vita e vita nuda, tagliando grossolanamente tra immateriale e materiale, e poi aggiunge che siamo dentro a una metamorfosi che può essere declinata solo prendendo sul serio il tema della green economy, o meglio, dice, della green society. E poi, cito testualmente, chiariamo, green economy non significa l'idilliaca vittoria di un'ideologia ambientalista. Green economy e green society significano il capitalismo che incorpora il concetto del limite, che tiene insieme in modo sostenibile vita nuda e nuda vita. Anche da questo ragionamento che abbiamo così rapidamente ripercorso è evidente che questo non è un libro dedicato esclusivamente al cibo, è un libro molto propositivo, ecco, nei confronti di chi lo legge. E c'è un altro che compare spesso, che è Serge Latouche, viene nominato da Bonomi, viene nominato da Philippe Daverio. Anche questo è un pensiero appunto serpeggiante tra tutti coloro che avete sentito. La decrescita va fatta, non va fatta, può essere felice, come si può raggiungere quell'obiettivo, no? Dice un certo, anche Bonomi stesso dice, però bisognerebbe dire a tutti quei piccoli imprenditori che vadano da un'altra parte, perché se noi facciamo la decrescita loro come fanno a fare imprenditoria, no? Quindi... No, indubbiamente, e in effetti il nostro libro, come dice Karim Petrini nella prefazione, è leggero ma appunto non superficiale, cioè cerca da un lato sicuramente di intrattenere il pubblico, di interessarlo, e poi di far passare attraverso la voce di questi personaggi famosi alcuni concetti molto importanti e molto complessi. È indubbio che questo tema che lei citava è di particolare rilievo e interesse. Bisogna capire se la green economy in effetti, quindi anche un certo sorto di decreto serena, viene interpretata in un modo diciamo anche corretto, no? Perché talvolta c'è chi ha polemizzato soprattutto rispetto con riferimento alla crisi economica, dicendo ma noi la stiamo subendo, quindi non è crescita più diciamo obbligata che altro. Altro che felice, certo. Va presa in realtà come uno spunto, uno stimolo, ecco, no? Tante volte magari si pensa che Latouche sia è un filosofo dell'economia, non è un economista, quindi è chiaro che poi spetta a chi, ai economisti, ai politici e anche ognuno di noi reinterpretare queste dimensioni, questi stimoli, questi spunti. È indubbio che molti ormai se ne sono reso conto, questa non è una crisi, e forse non è neanche corretto proprio il concetto in termine stesso di crisi, perché la crisi per sua definizione poi si ricompone, no? Poi ha un passaggio e ha una fine. Qua invece probabilmente siamo di fronte a una sorta di trasformazione epocale, sistemica, che quindi forse è più difficile anche da accettare, ma che inevitabilmente porterà, come sta già portando per la verità, a nuovi modelli di stili di vita, modelli di consumo. Quindi è qualcosa che forse è difficile anche da descrivere, anche per noi sociologi, perché vivendo internamente il problema, insomma, la capacità poi di astrarsi non è così semplice. Ma è indubbio che Latouche e altri autori sono una grande risorsa dal punto di vista culturale, perché ci indicano delle vie nuove e in qualche modo che stanno diventando anche obbligate, perché pensiamo alla crisi appunto ambientale, alla crisi ecologica, anche ai problemi demografici, ai problemi dei migranti, cioè tutto un modo, come dire, di interpretare i modelli sociali e culturali che pian piano si sta modificando e che si dovrà modificare. È ovvio che come tutti i cambiamenti culturali poi è lento, ecco, non è rapido, e quindi può determinare qualche problema di adattamento, ecco, da parte di alcune persone. È indubbio ad esempio che come dice bene anche Bonomi, il vero problema in questo contesto è di fare in modo che non ci siano troppi problemi legati al mondo del lavoro, perché è ovvio che la crisi occupazionale è legata proprio anche a questo passaggio di sistema, no? Quindi, e qui forse è importante che intervengano anche le realtà pubbliche in qualche modo a tutelare chi rischia di più in questa fase di passaggio. Poi lei ha scritto una bella conclusione che però non vogliamo forse anticipare, no? Il suo doscena è anche un bel titolo per le conclusioni. Per anche qui appunto una veste diciamo un po' più naif sì, beh, come appunto volendo sono naif i titoli di ogni capitolo, no? Un polpo per amico per Monio Vadia, sì, e poi dentro si parla di non del polpo insomma, però il titolo è accattivante, ed è anche giusto che sia così, sennò non verrebbe voglia di leggere magari come può venire a più persone, adesso che ovviamente chi è interessato legge comunque qualunque sia il titolo. E lei conclude dicendo che si augura di farne altri, e anche noi ce l'auguriamo, insomma, che sia così. Perché mi sono anche divertito molto, anche divertito, insomma, bene. Rispetto al mio lavoro tradizionale, che è quello più ovviamente di scrivere saggi scientifici, essendo comunque un sociologo, questo io mi sono divertito molto perché indubbiamente, proprio nel senso etimologico del termine, no? di volgere altrove per un momento la mia attenzione. Presumo che se questo libro insomma andrà bene come sta andando, non è escluso che ci possa essere un'altra edizione, comunque che si proceda anche in questa forma più divulgativa, perché vedo che può avere indubbiamente dei buoni effetti, ecco. Sì, ma magari qualcosa anche di professionale, cioè che diceva qualche saggio più saggio da questi può nascere, mi dà l'idea che qualche spunto sicuramente sarà venuto fuori. Sì, beh, io ho già scritto in contemporanea con questo altri testi, una curatela che si intitola Quando il cibo si fa benessere, e poi un libro in inglese per il pubblico diciamo internazionale. Adesso sto pensando a un nuovo testo, in effetti volevo trattare anche degli aspetti più innovativi che riguardano il cibo, che sono particolari, penso che forse lei ha già sentito questo discorso dell'entomofagia, no? Che è molto particolare, sì. Dove si dice anche qui per motivi di sostenibilità tra 50 anni dovremo mangiare insetti perché ci saranno problemi per reperire altri alimenti. Ovviamente sono ipotesi che hanno anche un loro fondamento. Poi ci sono anche altre forme che anche nel libro escono. I nostri intervistati in questo sono molto laici, diciamo, non sposano una posizione o l'altra sul piano delle scelte alimentari, ma abbiamo i vegetariani, abbiamo i vegani, cioè c'è tutto un mondo legato ai temi del cibo che è interessante da studiare, perché affronta questi temi in un modo diverso, che naturalmente può essere anche discutibile per certi aspetti, ma che indubbiamente va studiato e va approfondito, direi. La ringrazio molto, le auguro quindi buon lavoro per il futuro, per il 2016, per tutto. Grazie mille anche a voi, buon anno, buongiorno. Bene, grazie a Paolo Corvo che è stato nostro ospite oggi. Il libro di cui abbiamo lungamente parlato, Dimmi come mangi, 14 interviste imprevedibili sul cibo, edito da Terre di Mezzo. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto, potete scriverci come sempre a l'altropianeta@radio24.it. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.